Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sono le 15.06, Tracce di Cinema sta per cominciare. Un inizio un po' incriccato oggi. Abbiamo cominciato senza essere veramente preparati, però adesso ci siamo. Il film di oggi è la frase di lancio del promozionale del film di oggi è 12 years in the making, perché 12 anni ci sono voluti per finire questo film. Il film in questione è un film indipendente del 2014, scritto e diretto da Richard Linklater, una delle maggiori voci del cinema americano contemporaneo. Ha partecipato in concorso alla 64esima edizione del Festival di Berlino, dove ha vinto anche un buon premio, ha vinto l'Orso d'Argento per migliore regista a Berlino, ha fatto incetta di premi ai Golden Globes del 2015 e è durato 12 anni, ma è stato girato in meno di 40 giorni, nel senso che questi 40 giorni sono stati distribuiti in questi 12 anni, ed è costato pochissimo, anche se la sua lavorazione appunto si è protratta per così tanto tempo. 12 anni appunto di il tempo durante il quale è cambiata soprattutto l'America, passando dal dopo 11 settembre alla guerra in Iraq, alla presidenza di Obama, e accanto a questa descrizione storica insomma dell'America, questa descrizione serve da sfondo alla storia del protagonista, che è Mason. È un ragazzino che cresce, è la storia di questo ragazzino che cresce durante 12 anni. Un budget, come dicevo, molto modesto, rinnovato per anno e anno, una troupe leggera, solo in parte stabile, e una sceneggiatura molto ben strutturata, perché esposta all'imponderabilità dell'invecchiamento degli interpreti. Il regista Linklater, che ha firmato Boyhood, ha fatto davvero un film su una vita, il film di una vita su una vita, e la colonna sonora che lo accompagna è molto interessante, perché appunto si snoda accanto ai tempi che vengono percorsi dal protagonista del film. Ci sono diverse canzoni che si sentivano durante gli anni della sua crescita, fino a che non diventa grande. Passiamo dai Coldplay a Crazy di Gnarls Barkley, Somebody That I Used to Know di Gotti, insomma tantissimi altri. We'll be right back. The Hives, Hate So Say I Told You So. E sì, beh, è un gruppo musicale garage punk, come se abbiamo potuto sentire. Sono svedesi, si sono formati nel 1993, il primo demo è datato 1994, il secondo album ufficiale che gli ha dato, diciamo, li ha portati al successo è invece il titolo è invece Veni Vidi Vicious. Divertente. E a proposito del film, invece, stavo dicendo prima che, insomma, è un film del tutto particolare, è proprio un esperimento questo che è stato fatto, perché appunto è durato moltissimo tempo, il tempo in cui è stato che è servito prima di finirlo, ecco. E come, insomma, le domande sono tante, le curiosità sono tante riguardo a questo, come è stato possibile portare al termine un film del genere, con che criteri è stata scelta la colonna sonora e i riferimenti culturali da inserire nel racconto, come si sono organizzati per rispettare gli impegni lavorativi di tutti. C'è molta improvvisazione anche, perché nella sceneggiatura, appunto, che dove è dovuta è cambiata probabilmente nel tempo. E Linklater, che ha curato la regia, durante una conferenza stampa ha risposto più o meno a tutti questi quesiti, e raccontando un po', lasciandosi un po' ai ricordi e facendo delle considerazioni. Una di queste che io ho trovato interessante per descrivere il suo lavoro per questo film è questa: gli anni più difficili sono stato il primo e il secondo, quelli che riguardavano l'organizzazione del progetto. Poi è andata meglio, anche se prima di ricominciare le riprese era sempre un periodo molto intenso. Durante le pause ci tenevamo in contatto, io andavo a trovare Ellar, ovvero Mason, il ragazzino di cui seguiamo il percorso evolutivo, e parlavamo di anno in anno di cosa fare in quello successivo. Inoltre ci sono stati solo alcuni dialoghi improvvisati, tipo quello riguardante Star Wars, ma il resto era scritto. A volte ci riducevamo a scrivere all'ultimo momento per essere sicuri di esprimere le parole giuste. Beh, questa è una soltanto delle dichiarazioni che ha fatto Linklater di questo film, insomma, del tutto particolare, che ha avuto un grande successo sia di critica che di pubblico. Pensate che sono stati spesi 4 milioni di dollari, mi pare, sì, e il film ne ha incassati 44 milioni, quindi, insomma, un bel colpo. Deep Blue, loro sono Arcade Fire, c'era scritto The Suburbs. Ah, era l'album. Te l'ho fatto cercare prima, ma è iniziata proprio così la puntata oggi, eh? Già da prima che stavo preparando le ultime cose, si capiva che sarebbero successe le cose strane. Vabbè, Deep Blue, bella. Ti piace? Sì. Ce l'hai, sì, nel telefono? Due, no. Però ce n'ho una degli Arcade Fire, ma questo non interessa a chi ci ascolta. E loro hanno due brani nella colonna sonora. Sì, questo e l'altro non me lo ricordo, però è bello anche l'altro, mi è piaciuto pure l'altro, infatti ero indecisa se aggiungerlo. Beh, gli Arcade Fire chi sono? Sono un gruppo musicale indie canadese, formatosi nel 2001, hanno debuttato nel 2003 con l'EP omonimo Arcade Fire, e l'anno seguente poi uscì un album dal titolo Funeral, che ricevette un grandissimo consenso da parte della critica specializzata, però modesto riscontro commerciale. Questo album Suburbs invece li ha un po' consacrati, mentre invece per quanto riguarda questo stralunato film, io ho riflettuto molto su questo, su l'impronta che lui gli ha dato, no? Che è proprio una cosa molto originale per il cinema, perché non esiste proprio concettualmente di fare un film così lungo, no? La prima cosa che si chiede quando si inizia a lavorare a un film o per insomma in questo ambito, gli addetti ai lavori dicono quante settimane? E insomma, pensando a questo, ho detto madonna mia che stralunato questo Linklater che ha fatto questo film in 12 anni, ed è per questo secondo me un film totalmente rivoluzionario, nel senso che ha proprio sconvolto le regole alle quali sono abituati le persone che fanno cinema, insomma. E anche diciamo la modalità che insomma in qualche modo siamo abituati ad avere quando entriamo all'interno di una sala cinematografica, qui viene sovvertita in qualche modo, no? Perché non è più un film di fantasia o un film che documenta un fatto reale, ma è un film che racconta una vita, e fatto proprio negli anni in cui questa vita, nel caso in specifico di Mason, questo ragazzino americano, si svolge. Pensate che ha iniziato a lavorare che aveva 7 anni, e poi insomma ha continuato da attore negli anni successivi, quindi insomma ha mutato lui, la sua fisionomia e tutto il resto, così come gli attori che erano accanto a lui, Patricia Arquette e Ethan Hawke. Pensa a Fede che ho letto che Linklater si è raccomandato con Rosanna Arquette di non farsi ritocchi di, come si dice, sai, queste cose col silicone, queste plastiche facciali che sono molto usate nell'ambito diciamo di hollywoodiano, no? Vediamo sempre queste donne, queste bellissime attrici che poi da un momento all'altro diventano uguali una all'altra perché si fanno queste cose terribili. Però insomma lui si è raccomandato, non so se era proprio una cosa contrattuale per cui lei non doveva assolutamente farsi dei ritocchi. Buffo. la tengo, I'll be around, pezzo molto sommesso, acustico con la chitarra. Bellissimo, fa parte di un album che si chiama Fade, il tredicesimo di questo gruppo musicale indie rock americano, è stato pubblicato nel 2013, molto significativo perché sono, diciamo, comprese tutte le caratteristiche di questo gruppo, vengono sintetizzati i tratti strumentali, c'è tanto apporto di chitarra, le atmosfere sono rarefatte e insomma è un po' un affresco di tutto quello che è la loro musica. Bellissima questo pezzo, il Be Around, sembra proprio come una fiaba, come ascoltare una favola, ecco. Io la tengo, è stato un sodalizio artistico familiare, che ha dato vita a una delle saghe più importanti dell'alternative rock americano, non solo per la qualità delle produzioni, ma anche perché per la loro longevità artistica, che è paragonabile a pochi altri fenomeni del genere. E nonostante i tanti dischi pubblicati, questo gruppo è sempre riuscito a coniugare l'attitudine sperimentale con la lucidità di intenti stupefacente, che ha impedito loro di sprofondare in un intellettualismo un po' cervellotico. E insomma, questa cosa non l'ho detta io, si vede? detta troppo bene. E la loro storia comincia nel 1944 a Hoboken, una piccola città del New Jersey, e il critico musicale e cantante Ira Kaplan e la compagna Georgia Hublai, batterista e cantante anch'essa, decidono di coltivare la loro passione comune per il rock all'interno di una band, e il curioso nome prescelto deriva dalla passione di Kaplan per il baseball. Io la tengo è infatti l'espressione in spagnolo tipica del outfielder che grida "ho la palla", capito? Sì. Invece, per quanto riguarda sempre il film, questo film, la colonna sonora in particolare, questo film che è un po' una capsula del tempo, va dai Weezer ai Coldplay durante gli anni dell'infanzia di Mason, agli Arcade Fire e Daft Punk verso la fine del film. Sono tutti frammenti musicali, perché in questo caso la colonna sonora non appare mai in modo forte, anche se è molto potente, ma sono soltanto dei frammenti che si colgono durante il film e che servono soprattutto a sottolineare gli stati d'animo dei personaggi. E a proposito di questo, il regista ha detto: quello che veramente contava per me era abbinare queste musiche alle esperienze più emozionanti degli attori. Così ho ascoltato tutte le opinioni personali, in seguito con la maturità di Mason ho fatto sì che la musica convergesse sempre più con la sua crescita ed i suoi gusti. Somebody That I Used to Know. Gautier, molto accattivante, a me ricorda tantissimo un miscuglio tra Peter Gabriel e Sting. Assolutamente. E poi, nelle mie tante ricerche musicali, ero arrivato anche a Louis Bonfà e ho scoperto che Séville è il brano che Gautier ha derubato e ha pagato poi anche gli eredi. Esatto, lo stavo per raccontare pure io. Vabbè, intanto Somebody That I Used to Know è un brano musicale estratto come singolo, come secondo singolo dal terzo album di inediti Making Mirrors, cantato in collaborazione con questa bravissima cantante che si chiama Kimbra, una cantatrice musicista neozelandese. Il brano è stato scritto dallo stesso Gautier a proposito delle proprie esperienze nei rapporti sentimentali. È stato pubblicato il 6 luglio 2011 per il mercato globale, ha avuto un sacco di successo, è stata la prima canzone in Australia che ha passato più tempo al primo posto in classifica. È il singolo più venduto di Gautier e Kimbra e la loro è il singolo più venduto di Gautier e Kimbra a livello mondiale, ha venduto 11,8 milioni di copie, diventando uno appunto dei singoli più venduti di sempre. Ha avuto più di 1.400.000 download digitali ed è stato il terzo singolo più venduto del Regno Unito a livello digitale. Nel 2013 però si è scoperto in realtà che la canzone è stata copiata da un singolo del chitarrista Louis Bonfà, Séville, del 1967. Gautier, per risarcire, diciamo, la prima parte, per essere più precisi, ha dovuto pagare $1 milione agli eredi di Bonfà, poiché quest'ultimo è morto nel 2001. Il 6 gennaio 2012 la band calanese Wolf of the Heart ha pubblicato come singolo una cover del brano, accompagnata da un video su YouTube che ha ricevuto, pensa un po', Fede, in meno di 4 mesi oltre 100 milioni di visualizzazioni. Pazzesco, no? E a proposito invece del film, un'ultima cosa prima di iniziare il prossimo pezzo, questo film è un po' un documentario che Linklater gira su se stesso, è una specie di automaggio e ha un modo di fare cinema estraneo sia al cinema commerciale sia a quello d'autore, no? Case con She's Long Gone. E come ci ricordava il buon Elettrodo, ricordiamo anche l'iniziativa di domani a sostegno economico di Radio Onda Rossa con il concerto di Winter Severity Index, e a seguire un DJ set con due DJ nostri storici di Onda Rossa, Elettrodo e Fagiolino. Ok, sì, grandissimi, ciao a tutti e due. Bene, invece i Black Keys sono oggi probabilmente il duo blues rock più famoso d'America, almeno così ha detto qualcuno. Un discorso musicale scarno ed essenziale, legato solamente a una voce, chitarra elettrica e una batteria. Questo pezzo, questa traccia, fa parte di un loro album, Brothers, mi pare del 2010, che ha appunto consacrato questo duo all'Olimpo all'Olimpo delle band. Lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. I've seen your face in another light. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? In too deep and out of time. Why'd you have to go and let it die? A simple man and his blushing bride. Let It Die, lo dicono e lo ripetono, Foo Fighters. Brano che fa parte del, è il quarto singolo dal l'album, dal sesto album Echoes, Silence, Patience and Grace del 2007. Questo gruppo è nato da la volontà di Dave Grohl, batterista dei Nirvana. Tutto sembrava finito per lui, insomma, dopo la morte di questo grande amico e leader del più grande gruppo musicale rock dei nostri tempi. E poi sono nati Foo Fighters, che sono appunto in tutto e per tutto una sua creatura. La sua carriera è riassumibile in un verso che fa parte di una canzone del primo album, che è I'll Stick Around. E insomma, dopo il loro esordio, hanno avuto un'intensa attività musicale, hanno pubblicato diversi album, un sacco di progetti, sono stati ospitati da tutte le parti, un po' come si è stato detto di lui, si è stata un po' affibbiata l'etichetta di gregario di lusso, ma insomma non aveva nulla a che vedere forse con chi gli aveva spianato la strada, perché poi insomma il gruppo ha venduto un sacco ed è molto amato dal pubblico, però insomma si sono un po' appiattiti, secondo me, Fede, con questo stile grunge, sono un po' ripetitivi i loro album. Io sì, non mi dispiaccio, no, ai Foo Fighters, devo dire. Però è una storia diversa, cioè una cosa diversa. Sì, però insomma un po' ripetitivi, secondo me, con queste nelle loro sonorità. Alla prossima la dedico al mio collaboratore segreto. Ah. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care. Yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Lars Berkley con Crazy. Sì, il primo singolo del gruppo Lars Berkley, una collaborazione musicale fra Danger Mouse e CeeLo, è estratto dal loro primo album Sent Elsewhere, uscito nel 2006, ha ottenuto un grandissimo successo praticamente in tutta Europa, America e Oceania nel corso di quell'anno, ha vinto tantissimi premi, Grammy, e musicalmente è ispirato alla colonna sonora degli spaghetti western, così ho trovato su internet. Fede, ma alle colonne sonore, sì, alla Quindi... colonna sonora degli spaghetti western, in particolare ai lavori di Ennio Morricone. Conosciuto negli Stati Uniti soprattutto per le musiche relative al film di Sergio Leone. Questo brano in particolare trae origine da una traccia della colonna sonora del western italiano Preparati la bara di Ferdinando Baldi, la traccia composta da Gianfranco e Giampiero Reverbi si intitola Il cimitero di Tucson. all the things that you did. Coldplay con Yellow. Com'era l'aneddoto? Allora, che tutti quanti hanno dato un sacco di interpretazioni a questa canzone, anche profondissima, è dedicata a una persona, alle ragazze che soffrono di anoressia, grandi amori, alle donne, tutte le donne. Invece Chris Martin ha detto in un'intervista che il titolo del brano gli è venuto in mente guardando le pagine gialle e tutto qua. No, la cosa figa di questo brano è il video, che è stato girato in una sola scena, è presa diretta senza tagli ed è stato girato in 50 frame per secondo, il doppio della velocità normale, e al momento di girare quindi Chris Martin ha dovuto cantare il brano a velocità doppia, in modo che rallentando il video e il parlato si sincronizzassero. Allora, ci salutiamo a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, con i Daft Punk insieme a Pharrell Williams, Get Lucky. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky.